Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Vincenzo Di Vella. Pasta alla sfida. Di Stefano Totoro. Quando si fa la vita che ho fatto io, sono state tutte sfide, ve lo assicuro. Io, se mi metto a pensare, troverò due sfide, tre sfide. Però pensare alle sfide che si sono superate, se, anche con successo, a cosa serve? Ad auto magnificarti? Io penso che le sfide sono quelle che vengono, perché noi dobbiamo essere sempre pronti ad accettare qualsiasi confronto e quindi qualsiasi altra sfida. Sfide imprenditoriali, sfide politiche e sfide in famiglia. Tende a minimizzarle Vincenzo Di Vella, ma sono proprio le sfide che hanno caratterizzato la sua vita. Classe 1942, originario della provincia di Bari, è amministratore delegato della Francesco Di Vella S.p.A., azienda leader nella produzione di pasta, ed ex presidente della provincia di Bari. Una storia in cui si intrecciano imprenditoria e politica, una storia iniziata molto presto. Avevo 18 anni, oggi ne ho 66, fate voi il conto perché per me potrebbe essere pericoloso. Quando fui chiamato prima della maturità classica dall'allora seconda generazione, quindi genitori e zii, a dire che volevano controllare, vedere se il sottoscritto poteva avere attinenze per quel tipo di lavoro. Quindi parlo di tanti anni fa, io ho iniziato. Le nostre sono aziende molto tradizionali, nel sud poi hanno certi valori. Ho iniziato come elettricista, poi ho fatto il meccanico, poi sono andato nella rete commerciale, insomma c'ho tutta una trafila per arrivare poi a 36 anni dove finalmente mi comunicarono che potevo firmare gli assegni, ma mi dissero subito dopo, solo per andarli a versare, perché per firmare davanti era ancora presto. La vita in azienda inizia a 18 anni e, come succedeva molto tempo fa, si iniziava a lavorare anche durante il periodo scolastico. Vincenzo Di Vella ha dovuto conciliare gli impegni del liceo classico con le necessità della vita in fabbrica. Con grandi sacrifici, ci alzavamo all'alba o quasi, andavamo a dormire alle 11 o alle 12 di notte. Ci vogliono sacrifici, nella vita senza sacrifici non si ottiene nulla. Era una cosa bella perché da una parte mi acculturavo dal punto di vista scolastico, dall'altro iniziavo a lavorare, quindi non ho avuto nessun problema e sono contento di averlo fatto, lo ripeterei di nuovo, perché è stata un'esperienza fantastica che mi ha portato poi durante l'arco di tutti gli anni a salire sempre di categoria fino a quando sono diventato amministratore delegato all'azienda. Avevamo la domenica pomeriggio, perché la domenica mattina bisognava andare in azienda, anche se allora l'azienda era piccola e ci si fermava, si poteva fermare i macchinari il sabato sera. Si andava in azienda e io che non riuscivo a capire, allora i miei zii dicevano: tu, anche se vieni a leggere i giornali, devi venire la domenica in azienda perché devi dimostrare che sei attaccato all'azienda, così alle risorse umane che hai poi in azienda dai un buon esempio. La domenica pomeriggio pensavamo ad altro. È così, fra scuola e lavoro, che è iniziata la vita imprenditoriale del numero uno della Di Vella S.p.A. Dal basso, dai lavori più umili. Essere uno degli eredi, avere un cognome uguale a quello dei proprietari, importava poco. Ha perso il padre quando era molto giovane, in azienda lavoravano i fratelli del padre. E uno di loro in particolare si è preso cura del giovane Vincenzo. Sono cresciuto bene perché ho avuto come secondo padre un mio zio che non era sposato, che adottò me e i miei fratelli, e quindi ho avuto subito un secondo padre. E anche qui sono stato fortunato, ma la vita è fatta così. Senza fortuna è difficile che si possa avere grandi ritorni di positività. Quindi io sì, mi è dispiaciuto di mio padre, ero il più grande di quattro figli, avevo una sorellina di 6 anni all'epoca, mi ricordo bene, però ho avuto la fortuna di avere poi a fianco un secondo padre che addirittura tra l'altro mi ha forgiato. Io ricordo, allora fumavo, ora per mia fortuna non più, lui aveva il bocchino Daniel, io avevo il bocchino Daniel, lui fumava le Daniel, io fumavo le Daniel, lui aveva il profumo all'epoca Atkinson, io avevo il profumo anche Atkinson, cioè c'è stato un plagio totale nell'interesse però della mia formazione e di quella e della positività che davamo poi all'azienda in termini di ritorni. Mio padre mi è servito fino a un certo punto, perché come ho detto prima è stato più mio zio a formarmi nella società, e quindi ricordo molto meglio mio zio che mio padre. Mio padre lo ricordo per quelli che erano gli incontri familiari e quant'altro, ma non nel lavoro, diciamo. La storia di Vincenzo Di Bella scorre su due binari paralleli: l'attività imprenditoriale, che inizia molto presto, e quella politica, che inizia quando l'imprenditore ormai è affermato. È stato il primo imprenditore a scendere in campo, lo ha fatto nelle file del centro-sinistra. Quando ci racconta la sua storia ancora presidente in carica, poi nell'ultima tornata elettorale di giugno è stato sostituito dal candidato della coalizione opposta. Anche la politica, come l'imprenditoria, è una sfida che lui ha raccolto. Ha governato la provincia per 5 anni e la sua analisi a mandato quasi completato si sofferma sul ruolo di un imprenditore in politica nel sud del paese. Fare il politico al sud, parliamoci chiaro, io sono un imprenditore prestato alla politica e tale voglio restare. Non perché fare il politico uno debba vergognarsi, è perché fare il politico per uno che ha fatto l'imprenditore è difficilissimo. Io ancora oggi alzo il telefono in azienda e dico sì o no. Lì bisogna convocare i 13 capigruppo dei partiti, poi i 13 segretari provinciali, poi i 13 regionali, e dopo 2 mesi ancora stiamo a discutere. Ecco, cozza questo coso con la concretezza dell'imprenditore. Io non voglio fare il politico, non vedo in me un futuro politico, ma un ritorno in azienda quando avrò completato, mi auguro nel migliore dei modi, quello che mi sono ficcato in testa, che è quello di aiutare i giovani, che ora sono giovani laureati che con la valigia vengono al nord o vanno nel mondo. Non sono più quelli che devono andare a zappare o a fare l'operaio, insomma. E questa è una cosa inverosimile ancora, se si tiene presente che noi per esempio abbiamo a Bari università, parchi scientifici, abbiamo una serie di cose che possono formare, come formano queste nuove leve, che però poi non trovano più posto di lavoro. Allora mi sono ficcato in testa di dare una mano, sperando di fare marketing attrattivo, andando per il mondo consumando anche il mio cognome, che è conosciuto, insieme al presidente della regione, insieme ad altri soggetti, per dire venite qui ad investire. Mi sembra strano come uno possa andare dal nord a investire ancora a Timisoara e non venire a investire al sud, dove c'è di tutto di più. Ci sono aeroporti, ci sono porti, ci sono autostrade, ci sono, non voglio bestemmiare, ma la disoccupazione è una risorsa, se poi i disoccupati li formi, perché sono a disposizione in tempo reale a quelle che sono le esigenze dell'azienda. Beh, questo è quello che mi sono messo in testa, io spero di riuscirci, e se non ci riuscirò avrò fatto tutti i tentativi possibili e immaginabili. Forse nel nord c'è più preparazione. Io per esempio difficilmente potrò iscrivermi alla Lega Nord, però io apprezzo il modo di far politica della Lega Nord, mentre giù al sud purtroppo siamo disgregati totalmente. Addirittura non so, l'ultimo, Rifondazione Comunista, che si è diviso in due: i comunisti italiani che vanno per conto proprio, i verdi che vanno per proprio conto. L'unico tentativo di aggregazione, quello del PD, lo vogliono far fallire. Quella è un'ottima idea, quella di avere un partito grande che faccia da faro, che illumini tutto il resto. Invece anche là grande confusione. Io credo che al nord, devo dire con molta onestà, facciano i politici con più preparazione, mentre al sud c'è una specie di lassismo. Quando tu ti siedi a una poltrona, ti sei seduto e fai come i cinesi che aspetti sulla riva del fiume che qualcuno abbocchi. Queste, secondo Vincenzo Di Bella, sono le difficoltà del fare politica nel Mezzogiorno. Difficoltà che, secondo l'amministratore delegato della Di Bella S.p.A., azienda leader nel mercato della pasta, si riscontrano anche nel fare l'imprenditore nel Mezzogiorno. E vuol dire avere coraggio prima di tutto, perché, attenzione, non coraggio per la criminalità. Noi viviamo in un'area, la Puglia, dove molto tempo fa a Brindisi c'era la Sacra Corona riunita, ma che ora non c'è più. il coraggio di poter fare impresa in un'area dove la grande banca o anche la piccola non ti dà il credito, il coraggio di non avere operai, risorse umane specializzate, le devi formare tu, il coraggio di avere delle distanze. Come si fa a pensare che ancora oggi per andare da Bari a Roma in treno ci vogliono 4 ore e mezza e questo governo non ha finanziato l'alta velocità da Bari a Napoli nemmeno in questa ultima fase? Ecco, sono queste le componenti del coraggio. Poi io non avrei potuto crescere come sono cresciuto se ci fosse stata criminalità, sarei stato soggetto di tanti atti vandalici. Invece devo dire con molta certezza e anche con molto onore alla mia regione che tutto questo ormai da noi non avviene più. C'è la criminalità dello scippo e devo dire che quando qualche volta ho parlato con qualche amico dell'arma e dice: Presidente, dobbiamo essere contenti, in fin dei conti aiutiamo qualche povero, nel senso che dice meglio quello che non uno che ti spara, insomma. Il suo ruolo di presidente dell'istituzione del capoluogo pugliese non si incrocia mai con l'attività imprenditoriale, se non nella mentalità di un imprenditore alla guida della cosa pubblica. Ma Vincenzo Di Vella, prima del 2004, prima di essere eletto presidente della provincia, ha ricoperto diverse cariche. In fondo, ad un ruolo pubblico è sempre stato abituato. Ho avuto la fortuna di fare sempre le cose con molta, come ho detto prima, lealtà, schiettezza, amicizia, trasparenza. Ho avuto una serie infinita, lo dico non per fare il presuntuoso, di cariche, sia come Assindustria. Ero a fianco di Agnelli sul banco della giunta di Convindustria, ho avuto incarichi importanti nella Camera di Commercio, onestamente ero presidente di 2 aziende camerali, ero vicepresidente della Tecnoholding, il mio presidente era Salza, che è attuale presidente dell'ex Banco di Napoli, dell'Istituto San Paolo. Però queste sono cose passate. Io penso a cosa potrò fare da ora in poi, mi eccita, mi fa conservare giovane, mi penso molto su quello che posso dare ancora e come lo devo dare e dove lo devo dare, che è ancora più importante, perché posso portare ancora dei valori validi, positivi. Con passione e amore per le tradizioni della sua terra, da sempre Di Vella porta sulle tavole di tutto il mondo sapori autentici e genuini. È la passione! Abbiamo raccontato alcune sfide imprenditoriali di Vincenzo Di Vella. Il numero uno dell'azienda leader nella produzione di pasta ci ha descritto anche la sua attività politica terminata a giugno con la sconfitta elettorale alle elezioni provinciali di Bari. Una sfida, quella politica, esattamente come una grande sfida continua ad essere la vita in azienda. Di sfide è piena anche la sua vita privata. Ci apre la porta di casa e ci racconta perché. In famiglia è quella della quarta figlia, è una sfida enorme perché l'ho avuta in età avanzata e la sfida che ho vinto insieme a questa bambina è quella della seconda moglie, perché noi viviamo in la parte familiare ognuno per conto proprio. Io potevo benissimo, come tanti, continuare a fingere con la prima moglie, no? Invece ho preferito, come al solito, essere schietto, naturale, trasparente, così come faccio in politica. Ho chiuso con la prima moglie e ho avuto il coraggio di sposarmi la seconda, perché di solito non ci si sposa facilmente in seconda battuta. Beh, io ho trovato il mio punto di riferimento e poi questa bambina a 10 anni, 11 anni, l'unica cosa che ancora mi dà fastidio è che qualche volta che vado, non in Puglia perché mi conoscono tutti, ma per esempio a Roma, perché mia moglie è romana, qualcuno dice: il nonno che ti deve dare? Dico: guarda, non sono il nonno, sono il padre. L'unica cosa che mi dà fastidio, poi il resto sono. È molto bello perché io per esempio dei primi figli non ricordo niente. Il primo figlio l'ho avuto a 26 anni, quando ero nell'inizio della mia attività, quando ero finalmente in quarto o in terza categoria, con tutti i problemi. Adesso io la vivo la bambina, l'accompagno certe volte a scuola quando è possibile, non una volta all'anno, 2 volte all'anno, però so, la vado a prendere di sabato dalla scuola, che è un po' più libero il sabato. Ma poi l'affetto, la vivere insieme alla figlia tutti i momenti della scuola è tutta un'altra cosa. La figura della moglie nella vita di Vincenzo Di Vella è fondamentale, ha un ruolo molto incisivo nelle sue scelte. Senza il sì della moglie, il re della pasta evita di fare grandi passi. La considera una grande consigliera, la sente sempre al suo fianco, non tanto nelle scelte imprenditoriali quanto piuttosto in tutto il resto, anche, ad esempio, nella vita politica. Beh, mia moglie è fondamentale. Devo dire anche che è la seconda moglie, quindi è ancora più fondamentale, perché per aver cambiato, per essermi sposato di nuovo, vuol dire che questa donna mi ha portato della grande tranquillità e del grande equilibrio. Io lo dico da sempre, lo dico ufficialmente, io se devo fare dei passi, non negli investimenti, perché poveretta non credo che capisca, oddio, la metterò alla prova, vedremo un po', può darsi pure che mi dia un aiuto, ma se devo fare qualcosa che toglie tempo alla famiglia, io ho bisogno del suo consenso, altrimenti resto fermo. Quindi ho un ottimo rapporto in questo senso, che voglio continuare. È una donna splendida, perché l'ho conosciuta a Roma, e poi già il fatto che sia venuto a Bari, senza nulla togliere la mia città, che ritengo, come ognuno di noi, la più bella del mondo, ma insomma già mi ha dimostrato molto amore, per cui sono convinto che il rapporto continuerà su queste basi di grande disponibilità, di grande trasparenza. Mi piace riferire che quell'appuntamento politico li spaventai, i due miei interlocutori, perché gli detti appuntamento alle 7:15, ma noi alle 7:15 dormiamo. Dico: senti, io ho poco tempo disponibile. A 7:15 eravamo lì, fecero la proposta, presi il caffè, alle 8:10 ero a casa. Alle 8:11 minuti mia moglie mi aveva detto: se ti senti, vai, non aver problemi. Pensavo che servisse di più, invece mia moglie, come al solito, mi ha sorpreso, tenendo presente, avrà capito, che ci tenevo a fare quest'altra esperienza, perché è un'esperienza, posso assicurarvi, di grande livello, se effettivamente si porta qualcosa al territorio. Allora io l'ho presa in questo modo. Io ho avuto la fortuna di nascere benestante, ho avuto la fortuna che proprio i baresi prima, i pugliesi dopo, adesso tutto il mondo, esportiamo in 72 paesi, mi hanno dato la possibilità di vivere bene, a me e alla mia famiglia. Beh, è arrivato il momento di restituire qualcosa al territorio, è quello che io voglio fare. Usciamo da Casa di Vella e facciamo un passo indietro. 2 giugno 1994, il Presidente della Repubblica nomina Vincenzo Cavaliere del Lavoro. Questa non la considera una sfida vinta, ma qualcosa di più, un riconoscimento alla sua carriera, che espone con grande orgoglio sulla giacca. Guardi, questo fatto qua è il mio fiore all'occhiello, io lo porto qui alla giacca, potrei portare tanti altri, ma voglio dire, la motivazione più importante è stata quella che, quando me l'hanno dato nel 94, io già da, diciamo, 20 anni e più ero in aziende, avevo proprio il fatto di essere iniziato di aver iniziato la quinta categoria per arrivare poi alla dirigenza e poi all'amministratore delegato, mi ha favorito nella concessione di questo onore che mi hanno fatto. E devo dire che all'epoca questa era una cosa che non si aveva facilmente, eravamo all'epoca 300 e qualcosa e erano grandi personaggi. Quando io mi sono trovato insieme a queste, ho sofferto inizialmente, perché molte volte mi dicevo: ma io posso stare a contatto con queste persone che sono la storia dell'Italia? Beh, poi quando vedevo che venivano loro e mi chiedevano: quando mi manda un pacco di pasta? Beh, io ho detto: ma allora sono importante pure io qui, non so. Ho fatto degli scambi eccezionali che mi hanno aumentato di molto il mio patrimonio personale, come quello di Todds, che mi mandava le scarpe, 2 o 3 paia, io gli mandavo un cartone da 10 kg, il valore fra 3 paia di scarpe di Todds e 10 kg di pasta era enorme. Insomma, ho degli episodi bellissimi che poi, ecco, è stata questa carica, questa onorificenza, una cosa che è il grazie di tutto quello che ho fatto nella mia vita, che nessuno mai dice in vita, lo dicono solo quando si muore: no, ma che brava persona, ma che grande. Invece io l'ho avuto in vita e sono molto molto soddisfatto. Aver iniziato dai lavori più umili in azienda ha consentito all'attuale amministratore delegato della Di Vella SPA di conoscere la condizione degli operai in fabbrica, di capire più a fondo i loro problemi. E questo adesso aiuta molto il re della pasta ad avere un rapporto con i propri dipendenti molto stretto, sentendoli quasi come componenti della sua famiglia. Io sono cresciuto insieme ad alcuni dipendenti che ora hanno quasi la mia stessa età o un po' di meno, e che se non vanno via loro io non manderò mai dall'azienda via, perché sono stati fondamentali insieme a noi nella crescita dell'azienda, e vivere con loro è stato fondamentale sia per la conoscenza delle persone. Io so che loro sentono l'azienda come se fosse l'azienda propria, e posso dire, è venuto sui giornali anche, che quest'anno, il 2008, l'ultimo anno, avendo fatto un patto con tutti loro, io ho 240 dipendenti in questo momento, al raggiungimento di 1,5 milioni di quintali davamo un premio di produzione, abbiamo dato uno stipendio in più, quindi abbiamo dato dimostrazione di come si può dire grazie, ma vero, a tutti loro che ci hanno aiutato a crescere. La prima cosa che faccio quando arrivo è girare gli stabilimenti, veloce, per farmi vedere, per vedere e salutare tutti quanti. Poi vado negli uffici, un'ora e mezza, e poi me ne vado a lavorare in provincia. La sera vado solo in ufficio, perché l'azienda lavora anche di notte, però andare di notte lì a vedere, qualcuno potrebbe pensare che io andassi o vada a sorvegliare. Noi non abbiamo questi problemi in azienda, non è mai successo nulla, siamo tranquilli, sappiamo che possiamo anche andare via noi, che loro, perché la considerano loro l'azienda, e questa è una cosa che ci fa più piacere. Li mandiamo 3 volte all'anno nel mondo, dove vogliono loro, scelgono loro, a nostre spese. Abbiamo un fondo particolare in azienda, dove loro possono utilizzarlo come quando vogliono, dalla nuova stanza da letto a una cura dentistica a tasso zero. Abbiamo un rapporto eccezionale anche della domenica nei paesi. Noi abbiamo questo stabilimento in un paese a 15 km da Bari, ci si vede ancora in piazza, insomma facciamo i compari alle figlie, anche un rapporto come questo ce l'abbiamo con i nostri fornitori all'estero. Io quando vado a trovare i miei clienti, non fornitori, i clienti non mi fanno dormire in albergo, devo dormire per forza nella loro casa. Ecco, è un modo diverso, è un modo, pur essendo una grande SPA, una grande azienda, però in queste cose, in questi valori è ancora molto tradizionalista. Resta l'ottimo rapporto con i dipendenti, fra i dipendenti in azienda, ma la Divella SPA negli anni è cambiata. Si cerca di far restare alla guida qualcuno di famiglia, ma vengono richieste qualifiche e specifiche competenze anche agli eredi, perché guidare un'impresa di tali dimensioni non è poi così facile. Adesso non si entra più a 18 anni, si entra a 24, 25 quando ci si è laureati. Abbiamo 5 ragazzi di quarta generazione, tutti laureati, che anche loro stanno facendo la trafila che abbiamo fatto noi. Casomai gli abbiamo risparmiato di fare il meccanico, l'elettricista, però sono andati a vendere la pasta in giro in Italia e nel mondo, e sono andati a comprare il grano in Italia e nel mondo. In questo momento però mi piace dire che sono ragazzi che ormai sono maturi, ma che ancora oggi, possiamo dirlo pubblicamente senza ombra di dubbio, il loro stipendio mensile è di 2.000 euro. Hanno una Scenic, che non è una gran macchina di lusso come dotazione, e lavorano, però poi partecipano al dividendo di fine anno. Se andiamo bene come azienda, andiamo bene tutti; se andiamo male, dobbiamo pensare all'anno che viene. C'è una pasta in Italia che ha il sapore del grano. Sfide vinte in famiglia, ricordi di sfide in politica e sfide vinte nella vita da imprenditore. Francesco Divella ce le ha raccontate tutte e ci lascia con un piccolo aneddoto che per lui è ancora una volta sintomo di un'altra conquista. Bene, l'attività imprenditoriale, l'ultima vi dico, avere avuto da un amico che è andato nel villaggio dei Maori in Australia, siamo soliti noi italiani, e se siamo capaci di fare amicizia con tutto, questo è entrato in questa casa di questo Maori, ha visto la pasta Divella, l'ha fotografata e me l'ha mandata insieme a sto Maori tutto pittato con le cose nel naso. Beh, questo significa che ormai ci siamo imposti, sono finiti i tempi in cui io andavo anche a vendere la pasta, prima come venditore di aria, poi come capo aria, poi dove io presentavo la scheda della macchina con sopra scritto F Divella SPA per vedere se mi conoscevano, e nessuno ci faceva caso. questo. Ora invece, ecco, credo che siamo cresciuti tantissimo e credo che siamo cresciuti bene, con uno sguardo importante alla qualità, ma con prezzi molto molto competitivi. La puntata di Voci d'Impresa di oggi termina qui. Da Stefano Totoro l'augurio di una buona giornata.